Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sapete, da ieri e per tutta la settimana dedicheremo le puntate della mia trasmissione. Sarà una specie di speciale dedicato al mio libro, libro che tra due giorni, il 20 di maggio, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore. Lo troverete a 12,90 € in edicola. Il libro è Economia criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate. È un viaggio attraverso storie raccontate delle infiltrazioni delle mafie, perché non esiste più una sola mafia, delle mafie nell'economia sana, soprattutto del Nord Italia, un'economia sana che viene giorno dopo giorno erosa dai capitali sporchi delle mafie italiane e non solo. Ieri abbiamo parlato del Piemonte, oggi affronteremo la Liguria, alla quale dedico un'ampia parte del mio libro, perché la Liguria, con Genova in particolare, sono terreni molto appetibili per i capitali mafiosi. Ne parliamo con Salvatore Teresi, segretario generale Filcacisl a Genova. Buongiorno Teresi. Buongiorno. E con un validissimo collega del secolo XIX, un inviato, Marco Menduni, che tante inchieste ha dedicato anche a questi temi. Buongiorno Menduni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io partirei da lei, Teresi, perché in questi anni, anche attraverso le inchieste che mi hanno portato negli anni scorsi a Genova, ho capito una cosa banalissima, ma vorrei che lei lo raccontasse, vale a dire che il settore degli appalti, il settore comunque legato allo sviluppo edilizio del territorio, Genova e la Liguria in generale, è un settore sensibilissimo. Allora, ci può descrivere lei, Teresi, qual è la situazione che vivete sul territorio, anche attraverso le denunce che come sindacato avete fatto nel corso degli anni? Devo dire che la Liguria sicuramente non si discosta dal quadro italiano, nel senso che da questo punto di vista la differenza nord e sud svanisce, perché mentre al sud forse si spara e si fa dell'altro, qui la storia insegna che la criminalità organizzata, sotto tutti gli aspetti, investe e ricicla quelli che sono determinati proventi illeciti, e questo sicuramente nell'edilizia è storico. Sicuramente nel passato, già nel passato, questi elementi erano presenti, ma sempre di più, proprio rispetto alla crisi, la nostra preoccupazione è questo aumenti, perché più la crisi è evidente, più le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito, più legata anche a una frammentazione stessa del tessuto delle imprese, questo agevola chi ha capitali, chi provenienti chiaramente da illeciti, quindi di facile reperimento, certo, può investire negli appalti pubblici e non solo. Ecco, io però vorrei... Speriamo che devono partire grandi opere qua su Genova, esatto, Terzo Valico, nodo ferroviario, ma anche ci sono opere che intervengono su grandi aree di interesse pubblico che sicuramente possono dare spazio a elementi degenerativi. Assolutamente. Ecco, io però vorrei capire una cosa con lei, Teresi. Io tra le storie che racconto nel mio libro c'è quella anche di un rappresentante sindacale dei lavoratori, un vostro rappresentante, che ha, come dire, avuto un rapporto non proprio facile nell'accesso ai cantieri. Questo mi serve per chiederle questa cosa qui: ma c'è responsabilità, senso di responsabilità e consapevolezza da parte dei vostri interlocutori, gli imprenditori edili e anche le istituzioni, oppure si continua a credere che il problema della penetrazione dei capitali mafiosi riguarda Crotone e non riguarda magari Genova o Imperia? Ecco, io da questo punto di vista devo dire che forse non si vuol vedere oltre il dito, o c'è paura di guardare oltre il dito, e da questo punto di vista devo dire che la regione Reggio Calabria, così come la Sicilia, sono un passo in avanti rispetto alla realtà del nord nella lotta contro la criminalità organizzata proprio negli appalti. Vorrei chiedere al collega Menduni, vorrei fare la stessa domanda che ho fatto a Teresi, perché Menduni è un giornalista molto attento, un osservatore critico della sua realtà, è una persona che ha fatto delle inchieste, anzi vi invito a leggere Il Secolo XIX perché è un giornale straordinario, ha fatto delle inchieste in cui ha messo in evidenza l'affiorare di questi anche intrecci pericolosi tra criminalità e istituzioni, parti deviate della politica e insomma tutto quello che è il coacervo di interessi speculativi su una città. Ecco, Menduni, le chiedo, a suo giudizio la popolazione ligure, la città di Genova, sono sensibili oppure continuano a farsi scivolare sulla pelle questo problema, tanto non è un problema che ci interessa? Guardi Galullo, innanzitutto noi dobbiamo considerare, credo, la Liguria come un insieme non omologo. Noi abbiamo avuto negli anni esperienze direi di tipo molto molto diverso. Ad esempio parlo di Genova. A Genova ci sono stati pesanti tentativi di infiltrazione mafiosa, non adesso ma anni fa. C'è stata oggettivamente una reazione abbastanza, diciamo, vivace da parte della popolazione. Era un periodo in cui c'era un grande magistrato qua a Genova, che voglio, cito sempre, che si chiama Anna Canepa, che forse voi conoscete. Assolutamente. Assolutamente. Il fatto che ci fosse Anna Canepa è un'ottima procura antimafia e, diciamo, una certa collaborazione da parte dei cittadini ha sventato negli scorsi decenni sicuramente un tentativo di infiltrazione massiccia che ora si ripropone purtroppo in altre forme. All'epoca si è sparato, c'è stato un periodo in cui si è sparato anche a Genova, si è sparato e ci sono stati degli omicidi, Certo. oggi il tentativo, lo notiamo tutti, come lei ben saprà, è quello di un approccio più, tra virgolette, garbato, possiamo dire. Ecco, ma io per esempio senza scontri. Ecco, io per esempio, Menduni, nel libro ripercorro quello che è successo 2 anni fa, che a me personalmente sconvolse, perché io venni a Genova per seguire quello che era apparentemente un caso minore ed era il Mensopoli, lei lo conosce molto meglio di me, no? E pochi giorni dopo ci fu questa polemica incredibile perché sembrava quasi che improvvisamente, per alcuni fatti legati a Mensopoli, per alcune famiglie, diciamo così, abbastanza equivoche, che entravano anche in quella vicenda, famiglie calabresi, sembra quasi che improvvisamente la Vincenzi e anche il questore e anche il prefetto scoprirono questo tessuto di illegalità nella città di Genova. Ma allora, voglio dire, è come un fiume carsico: Genova scopre e poi affossa, nasconde e poi disvela quello che in realtà invece è un elemento sensibile che dovrebbe essere sempre allertato dalle istituzioni. È d'accordo o no, Menduni? Io sono assolutamente d'accordo, era proprio il filologico che stavo seguendo. Mentre all'epoca c'era stato il tentativo di entrare, diciamo, nella scena finanziaria, economica, anche proprio con le pistole, con le parti di sangue, questo sistema carsico, come lei l'ha giustamente descritto, credo che non ci sia proprio un paragone migliore, oggettivamente secondo me è stato accolto, è stato rilevato con un po' di ritardo a Genova, con un po' meno ritardo nel Ponente Ligure, su cui dovremmo fare poi una riflessione, perché è una situazione, un contesto molto molto particolare e assolutamente diverso da quello, da quello genovese. Io vedo, mi rendo conto di una cosa, sto lavorando proprio in questi giorni, tra vari casi, a delle situazioni che per l'appunto stanno accadendo nel Ponente della Liguria, nell'estremo Ponente, parliamo di Bordighera, parliamo di Ventimiglia, parliamo comunque anche di Sanremo e d'Imperia. Certo. E qui il problema è che è talmente diversificato l'offerta di situazioni appetibili per la criminalità che a volte forse c'è stato un po' di ritardo. Le faccio solo un esempio: noi stiamo parlando di appalti, stiamo parlando di costruzioni, stiamo parlando di altre cose. Io ho scoperto che c'è una serie di roghe, di incendi dolosi, di situazioni del genere nel Ponente Ligure. Io vado a studiare, cerco di capire cosa sta succedendo e mi rendo conto, l'ho scritto sul mio giornale, che almeno una parte di questi episodi sono legati a qualcosa a cui io onestamente non avrei mai immaginato. È il fenomeno, la distribuzione, come possiamo dire, piazzare i distributori automatici, quelli che vendono caffè e merendine. Ed infatti io ho seguito la sua inchiesta sul secolo XIX, mi è dispiaciuto non poterle inserire, perché i riferimenti alle sue inchieste, alle inchieste del secolo XIX, sono stati moltissimi, ma il libro è stato chiuso in tipografia il 21 di aprile, però sto seguendo questa inchiesta, perché è veramente sintomatica di come ogni affare diventa preda della criminalità economica. Io ringrazio Marco Menduni per il suo intervento, Salvatore Teresi, ringrazio Paolo Corleone in regia, Elisabetta Fusconi in studio, e vi do appuntamento a domani. Parleremo di Lombardia, di Expo 2015, e ne sentirete delle belle. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.